Jadi ambil nggak di tasku banyak. Thank you. Ada di situ. Sebetulnya ada di situ. Ada di mana di situ? Yakni